Ed eccoci qua, è domenica sera, come state? State tutti bene? Come? Scusa? State bene? Ah, ecco sì. Bene, state tutti bene. Eccomi qua, sono in studio, sono con i nostri carissimi amici che al momento non c'hanno le cuffie, però potete parlare comunque nei microfoni, non fa niente, niente ti succede. Ecco, c'è Fabio in studio, come stai Fabio? Bene, voi? Tutto a posto? Tutto a posto, stanno rispondendo tutti uniti, il nostro pubblico ci sta dicendo stiamo bene e mi fa piacere. Sono contento per loro. Siamo contenti per loro, domenica sera sono le 11:02, c'è anche il nostro carissimo amico Luca. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ecco, è una puntata straordinaria questa, perché Fabio se ne torna in Italia tra pochissimo e ci ha preparato lui una playlist, beh, lui e Luca ci hanno preparato un playlist di canzoni degli anni 60, sono, diciamo? Sì, 70. Sì, 60-70. Ecco, ci abbiamo questa, in questa puntata sentirete delle canzoni inedite per questo programma, diciamolo, ci sentiremo un po' di Mina, Luigi Tenco, Celentano... E Murolo. E Martin Granier... Mia Martini. Ah, scusa, ecco. Hanno preparato loro questo playlist, mi sembra una cosa divertente, anziché fare la solita classifica di Tiziano Ferro e di Zero Assoluto. Cambiamo le cose un po'. Soprattutto per i nostri genitori, qui a Sydney è bellissimo. Ecco, una cosa bella. Dunque, anziché perdere tempo così che ci sistemiamo un po' e ci prendiamo le nostre cuffie, eccetera, mettiamo in onda una canzone. Dai, questa è Mina, Se tu non fossi qui. Ciao ragazzi. Ah, che bello. Bentornati a Ciao Ragazzi. Perché stai parlando così? Non è che sei in azione russa, voglio dire. Diciamolo. Anzi, dicetemelo. State ascoltando a Ciao Ragazzi, una canzone insolita per il nostro programma, ma davvero bellissima. Avete appena sentito Mina con Se tu non fossi qui. Come state ragazzi? Dunque, bene. Spiegatemi un po' perché avete scelto questa canzone di Mina, Se tu non fossi qui. Anzi, non è l'unica canzone di Mina che ascolteremo in questo programma. Ce ne sono ben tre. Semplicemente perché è la voce migliore che abbiamo mai avuto nel nostro palmarès italiano. È la migliore interprete musica. Di musica italiana, sicuramente. Esatto, la grande mai Mina. Mai esistita, yeah. Ma Mina... campa, però è quasi come se non fosse... Sì, no, diciamo che si è ritirato dalla scena, non è apparsa più in pubblico. E come mai questa cosa? È stata una sua scelta. Come Lucio Battisti, d'altronde, buonanima. Ma Lucio Battisti non è più con noi, comunque. Sì, ma aveva fatto la stessa scelta, anche lui, di ritirarsi dalle scene. Ah, sì. È solo mettere musica e basta. Cioè, solo cantare, ma registrare CD e basta. E non esibirsi spettacoli. In pubblico, niente, no. Spettacoli. Niente gossip e nient'altro. Ma secondo voi perché una persona che diventa talmente bravo e non ha di bisogno di queste cose? Proprio per saltare soltanto la propria voce e dire io non ho bisogno appunto del business per essere il migliore, ecco. Che cosa, sarà una cosa pesante comunque per gli artisti esibirsi sempre al pubblico, fare i talk show, eccetera, mettersi su una poltrona di Maurizio Costanzo e parlare delle solite... Buonanima. No. Infatti, sì, e questo è il lusso di essere uno dei migliori, comunque, sì. Non doversi esibire. Ma sarà no, una soltanto essere proprio la voce e il suo biglietto dei visti. No, bisogna ricordarla per la voce, non per altro. Ecco, ricordarli per la voce, non altro. Ma comunque ci sono persone che ci godono comunque mettersi a esibirsi in questi come celebrità su questi sì, programmi in Italia. Sì, sì. E che ne pensate di questa gente allora? No, non serve a niente. That's sad. That's sad, è una tristezza. Si parte come cantante e si finisce magari poi nei salotti... di talk show di uomini e donne magari bravo perfetto cioè, uno come Costantino in Italia voglio dire che cosa serve Costantino un cretino fa anche rima spiegatemi un po' no vabbè niente sì. Scherzavo no comunque sempre persone che fanno parte soltanto di salotti ma non, alla fine non hanno niente cioè. Ma voi li seguite queste trasmissioni? No questi talk show? No, vabbè, ci si informa, si vede giusto il programma. Poi purtroppo siamo tartassati dalle pubblicità e da tutto, ma non perché si segue, ecco. Ma, comunque vanno seguiti abbastanza queste trasmissioni, sì, in Italia, è un format che va molto in Italia. Sì, le mamme, le ragazze, la cosa brutta è che anche le ragazze di oggi poi si vedono questi bellocci che non servono a niente davanti e poi paragonano giustamente, si sentono tutte... Va male, non è giusto. Creano una realtà che errata, non esiste, bravo, che non esiste, allora di belli e di gossip. Giusto. Ma è una riflessione comunque della società di oggi in Italia, una trasmissione così, si dice così comunque. Sì, è una riflessione, assolutamente sì. Comunque la televisione qua in Australia l'avete gustata? Vabbè, a parte che a casa abbiamo solo 4 canali. Purtroppo questa è la realtà delle... Ah, ma 5, no? 5, scusa, sono 5 canali, c'è la SBS, la ABC, la 7, la 9 e la 10. Diciamo questo anche perché questo programma va in internet adesso, si può scaricare da internet in Italia, in tutto il mondo, quindi spieghiamo ai nostri connazionali in Italia anche, facciamo tra parentesi perché il programma è anche per... specificamente per i nostri connazionali qui a Sydney, che comunque qua ci sono 5 canali in Italia, quanti ce ne sono? Ma tra TV nazionali e regionali ce ne sono tantissimi. Totale di quanti, diciamo? Vabbè, per regione, parliamo per a regione, parte la Rai e i Mediaset ne abbiamo sì, una quindicina. E quindi una quindicina e praticamente 11 fanno televendite, il resto ne abbiamo 8 serie, siano 7 o 8. Serie che poi sono sempre anche loro pubblicità, eccetera, però sono quelle nazionali, chiamiamole così. Continuiamo a parlare di televisione dopo la prossima canzone. Nel frattempo parliamo della prossima canzone che metteremo in onda, cioè Una carezza in un pugno di Celentano. No, Luca sta dicendo no, non la mettere adesso. No, la vuoi mettere per la chiusura. La vuoi mettere per la chiusura sta canzone? Sì, perché vabbè. Ci dovevo pensare prima, anzi, vediamo, ecco, va bene, cambiamo la playlist e mettiamo... La seconda. Martini. No, è ecco, bellissima. Mia Martini, è dite? Scuro, sì, Mia Martini. Non si può fare, ragazzi. Il lettore CD dice lontano di Luigi Tenco. Che ne dite di questa canzone? Chi è questo Luigi Tenco? Perché l'avete scelto due volte qua su sto playlist. Spiegami bene. Chi è questo Luigi Tenco? Scusate, io sono nato in Italia, ma ho vissuto tutta la mia vita in Australia, un po' ignorante su queste cose, a volte, non tutte, ma ci sono artisti che mi scappano. Spiegami un po', Luigi Tenco, chi è? No, è stato, secondo me, vabbè, ha detto anche comunque di molte persone, un grande cantautore. Ok. Vabbè, c'è un po' di casino sulla fine praticamente, perché è passato un po' la storia in modo un po' eclatante, perché si è suicidato al termine di un Sanremo, non ricordo di che anno. No, hai capito di chi stiamo parlando? Si è suicidato? Sì. No, non ho capito, non lo sapevo. Sì. E quindi... E quanto tempo fa? Negli anni 70. Sì, 30 anni ma sono passati. Quindi è arrivato al secondo posto, una cosa del genere? No, la canzone era molto bella, non ha vinto e... Non lo so, comunque poi si è suicidato alla fine, durante il festival, sì, insomma ci fu questo scandalo. Non è mai giustificabile suicidarsi, certo, non c'è mai un motivo... Certo. Che lo giustifichi, però nel suo caso la canzone Lontano, magari c'è stato qualche imbroglio, non so se si è parlato di imbrogli oppure... Che cos'è che l'ha fatto... Sì, vabbè, Sanremo è stato sempre un pochino così, nel senso si è sempre parlato appunto di preferenze, di cose accordate, e non c'è ma stato. Sicuramente lui, non so, non si è mai saputo, comunque forse ha dovuto conoscersi certe cose, non si è mai capito. Okay. Sì, comunque... È un peccato, è stato un grande cantautore, sicuramente uno dei pochi di quel periodo. Ok. Ha fatto delle bellissime canzoni. Una di queste è appunto Lontano. Poi sentiremo delle altre comunque nel corso del programma. Ok, nel corso del programma ascolteremo a Luigi Tenco. Abbiamo un'altra canzone sua che sentirete verso la fine della trasmissione, ma per adesso Lontano. Prima di andare alla prossima canzone, un piccolo salutino alla nostra amica tedesca Franziska, che fa il montaggio per questa trasmissione, per mandarlo in internet. Un saluto a Franziska. Ciao Franziska. Vediamo l'ora di conoscerti. Andare a guaggire. Ok, eccoci qua. State ascoltando. Ciao ragazzi, io sono Roberto, sto con Fabio e Luca. Fabio domani parte. No, dopo domani parte. Triste, vabbè, triste. That's it. Come è stata questa esperienza tua in Australia? Solo una parola, ritornerò. Ti è piaciuta? In ginocchio da te. Dalla terra Australia, mamma Australia. Ti sei visto un po' d'estate, comunque l'estate è finita tristemente. Sì, vabbè, adesso così. Vado a fare la mia ora. Ti vado a fare la tua, bravo, una bravo. Cosa positiva è c'è, vado a fare la mia in Italia. Bene, ancora, bene. Vabbè, passo un mesetto, però già il tempo là si sta sistemando. Si sta scaldando il tempo. Si sta scaldando, stiamo scaldando i motori per la nuova stagione estiva. Tanti giornate a mare, oppure tornerai con questa bella abbronzatura, torni in paese, guarda, sto facendo il fighetto. Sto lampadato. Sto lampadato. Addirittura c'è chi non crede che sono stato qua in Australia, mi ha detto che sono nascosto da qualche parte. Mi è arrivato l'email, dillo che sei nascosto qua a Lido Sayonara, che è una spiaggia di Siracusa, no? Dove sto io. Ci esci. E chi ci crede? Che un ragazzo se ne parte, se ne va in Australia. Poi gli fai vedere le foto. Poi faccio delle foto qua della radio con ecco, te. Ecco, la questa verità. È quello che conta. Questo è quello che conta. Caccio zio Roberto, diciamo. Zio Roberto, comunque questo soprannome non mi piace. Dai, zio oggi sarai zio Roberto. Zio Roberto, come i miei nipoti. Mi chiamano zio Roberto, eccomi qua, anche per voi. Ok. Sono il vostro zio, mi fa piacere. Grande zio. Ecco una cioccolatina. Niente, ci hai visto. Senti, comunque sì, non vedrai l'ora di tornare per una bella stagione estiva di televisione italiana. Ci sono dei bellissimi programmi d'estate in Italia. Veramente sì, ci sono dei bellissimi programmi. Luna però... Park estate. Lo fanno ancora? Luna Park mai estate. Visto. Mai visto. Con chi è? Luana Ravegnini. Ma dai, Luana Ravegnini, niente, ci hai visto. Vabbè, tanto. No, vabbè, no, non lo conosco. No, mi sa che siamo parlato di un bel po' di anni fa. Poi io al massimo seguo il Festival Bar, che è fantastico. Ah, ecco, Festival Bar è una tradizione. Un evento abbastanza grosso, sì. Sì, l'ho visto anche una volta in diretta a Taormina, sono stato. Ah, sì, perché si fanno la tournée di fanno tutta... Fanno la tournée di tutta Italia, sì. La Arena di paga? Verona. Certo, si paga. Si paga per andare al Festival Bar. Certo, cioè. Normale. E quanto? Non mi ricordo quanto abbiamo uscito... 35 euro, una cosa del genere. Però in base al posto, no? In base al posto, sì, la posizione. Ma... Ah, poi al Teatro Greco di Taormina l'hanno fatto quella volta e costava già abbastanza, solo perché era in un posto veramente esclusivo. C'è tutto quindi... il mare, una cosa molto bella. Quindi li fanno in queste zone abbastanza. Sì, Salso Maggiore, Lignano Sabbia d'Oro, zone esclusive, Piazza del Campo a Siena, l'Arena di Verona. L'Arena di Verona fanno le finali, ad esempio. Del Festival Bar, vabbè, tipo... Vabbè, comunque vince sempre lui, quindi... È una gara, ma Festival Bar è una sì, gara, è una gara, non so Vasco Rossi o Ligabue vince. Alla fine, che batte poi... Ma ci sono anche gli stranieri, ma loro non sono sì, del no, concorso. Ci sono alcuni che fanno partecipare proprio alle gare per vincere, alcuni che sono soltanto come special guest, no? Quindi è come un Sanremo, ma è più prestigioso di Sanremo, ma direi. A me piace di più forse perché c'è più musica, diciamo, per noi, o comunque sì, più attuale. Ma voglio dire, comunque... quest'anno con Pippo Baudo... Ora, Johnny Dorelli con... Albano secondo c'è cioè uno vince non Simone Cristicchi voglio dire non ne parliamo ma dai non ne possiamo parlare se no ci linciano scusate ci linciano mi dispiace ma non è la prima volta comunque che vince una canzone un po' buffa comunque non vince proprio la canzone da cantautore con un gran sentimento sembrano di essere canzoni di osservazioni un po' superficiali ti regalano non lo so ma comunque basta non ne parliamo perché no, ecco parliamo, perché parliamo. C'è il rischio che perdiamo ascoltatori ci allunghiamo troppo ecco dunque sì la prossima canzone che andrà in onda sarà una canzone che mi sembra che meridionale. Direi Cumme, sì, sembra napoletana. Sì, bravo. Napoletana. Bravo, bravo. Cumme, la doppia M. Ce ne abbiamo napoletani qua a Sydney, sì. Ce ne sono tanti c'è di napoletani. C'è una grossa comunità. Se siete napoletani e vi piace il mare. E vi piace il mare. La grande costiera amalfitana. Ecco. C'è una canzone che è stata scelta dai nostri amici Luca e Fabio. Sta canzone si chiama Cumme e dunque di chi è questa canzone? È di Murolo e insieme a Mia Martini. Mia Martini. Anche lei. Un'altra grandissima. Un'altra grandissima. Lei si è suicidata anche lei. Mi è rimasta soltanto la sorella. Scusa, ma la sua sorella come si chiama? Loredana Bertè. Eh beh, ecco. Nome d'arte, mia Martini. Ecco, se no sarebbe Martina Graniello. No, mi sbaglio. No, Bertè, no. Però non mi ricordo... Che ho fatto qua? Scancella. Dunque, e questa canzone perché l'avete scelta? Non lo so, sono stato sempre legato a questa canzone, un po' mi ricorda il mare, un po' molto profonda come canzone. C'è un po' di Te voglio bene assai sta canzone? Questa è da scaricare, Te voglio bene assai. No, è più che altro è un paragone un po' tra il mare e l'anima, insomma. E di che periodo è sta canzone? Ma credo sia fine anni 80. Quindi anni 80, delle canzoni che abbiamo messo in onda fino adesso, questa sarà la canzone più moderna, più nuova. Sì, questa è quella testona, nel senso che non segue un filo, però non lo so, l'ho voluta mettere così. Ok, quindi tra pochissimo con me e poi ci sarà un altro po' di Mina e un altro po' di Luigi Tenco. Quindi rimanete con noi in onda, state ascoltando. Ah, ciao ragazzi, eccoci qua con me. Bellissima questa canzone, mai sentita io, comunque la conoscete voi? Sì, questa è una canzone che ha fatto storia in Italia. Sembra di sentire dei fantasmi, una persona ascolta una canzone del genere, già che mia Martini non è più con noi, e sentirla cantare, poi è una canzone, questa canzone c'ha molta atmosfera, sì. Atmosfera infatti di mare. Sì, c'è questa analogia tra l'anima e il mare, no? Cioè appunto se non scendi in fondo all'anima non ti puoi mai conoscere, no? E quindi appunto dice scendi in fondo al mare non puoi mai sapere cosa c'è sotto, no? Bello. Bellissima analogia, sì. Pensate a un tramonto estivo. La cosa bellissima, il sole che va giù e tu ti ascolti questa canzone magari su un bagnasciuga. Diventa magia. E tu adesso che ti vai, ti incontrerai una bella estate, te l'ascolterai sta canzone magari sulla mia barca. Bello. Probabilmente. Bello. E dunque, io adesso vi leggo un annuncio o due, dato che è importante leggerli. COASIT, il Comitato Assistenza Italiani, è un'organizzazione not for profit che opera come centro d'assistenza per la comunità italo-australiana da oltre quasi 40 anni. Dai suoi modesti inizi alla fine degli anni 60, il COASIT oggi continua a seguire i suoi obiettivi iniziali con efficacia, cioè assistere gli emigrati italiani tramite un coordinato programma d'accoglienza e promuovere sia la lingua che la cultura italiana in Australia. Sotto questi due primari obiettivi, COASIT opera grazie al contributo di professionisti bilingui di varie specializzazioni, quali psicologi, assistenti sociali, interpreti, eccetera. COASIT offre servizi di supporto per la varietà di problematiche che potrebbero affrontare membri della comunità italo-australiana, da problemi burocratici, problemi familiari a problemi di tossicodipendenza e alcol. Oltre ad assistenza con problematiche di questo genere, COASIT si presenta con una risorsa immensa di materiali culturali, con una ampia video e biblioteca, oltre ai suoi eccezionali programmi di insegnamento della lingua italiana, sia a giovani che ai più grandi. Dunque, per contattare il COASIT per qualsiasi motivo, chiamatelo 02 95 640 744. Dunque 95 64 07 44. La sua sede è al 67 Norton Street, Leichhardt. Dunque, hanno anche un sito web, pensa che modernità. www.coasit.org.au. Lo sapevate? No. Beh, sarebbe org.au, ma ecco, questo è il COASIT. Utile anche per voi ragazzi, comunque. Ah, sì. Volendo. Potremmo averne bisogno. Che cosa avete di bisogno voi al momento? Cosa vi serve? Cosa vi occorre? La numero uno. Che si può dire in onda? Allora, la posizione numero uno è... vabbè, sorvoliamo. Lavoro l'hai trovato, Luca? No, proprio questo. Come stanno andando le cose? È la posizione numero uno che voleva dire. Ecco. L'ho detto per te. Sì, lo so, ma non lo so, mi sembrava più facile, ma... E come stanno andando le cose? Come ti stai trovando? Ma tante promesse, tante chiamate che dovrei ricevere, ma non è... Tante, quindi più di una? Sì, ma nessuno si è mai fatto sentire in realtà. E come mai sta cosa? Non so. E se ristoranti sono, eccetera, sì, stai cercando di aiuto cuoco, non ti preoccupare che ti chiamiamo, lasciami il tuo numero, nessuno a tutt'oggi si è fatto sentire. Fai un annuncio in diretta, dai. Un annuncio in diretta, Luca... Cerca disperatamente lavoro. No, se dici disperatamente no, vogliono Luca cerca così casualmente una no, richiesta di disimpegnato. No, giusto fine settimana mi piacerebbe lavorare, ecco, in infatti, cucina. Parliamo chiari. Luca ha lavorato come aiuto cuoco, eccetera, in cucina, è abbastanza in gamba, in forma, biologo marino. Con la passione per la cucina. Con la passione per la cucina e se volete potete contattarlo tramite il programma, cioè 981-6-2938. Luca cerca lavoro, chiamateci. Dunque, oltre a quello, ho sentito che hai trovato casa. Sì, con un bravo ragazzo. Un bravo ragazzo. Ma, dicono. Dicono che sia bravo questo ragazzo. Dicono che sia bravo. E lo conoscete anche voi comunque, è una persona che conoscono tutti i nostri ascoltatori. Sì, sì. Comunque vicino al mare, quindi sì, a Marubra. Sì, da giovedì credo. Giovedì inizierà una nuova, ecco, ci trasferiamo, diciamo, andiamo a vivere. Ormai l'abbiamo sgamato. Ecco, adesso lo sapete, quindi una casetta carina, confortevole, graziosa. A 5 minuti dalla spiaggia di Marubra. Ma 5 sono troppi? Due? Sì. Anche di meno. No, ma anche di meno, si proprio sente il mare. Quando... Si sente il mare, sì. Si sente il mare. Di notte bisogna stare attenti alle mareggiate. Ecco, il problema è la ruggine in quella zona, perché... Sì, Però ci sta. Noi siamo fatti di carne e ossa, dai. Carne e ossa, non ci succede niente. Niente ci succede. È impazzito. Attecchisce solo sul ferro, quindi. Ecco, piccolo problemino tecnico con Fabio, dice non sente niente. A me mi senti? No, in cuffia mi ti sento. In cuffia non mi senti? Chissà quello che sarà, ma non importa ai nostri ascoltatori che ci seguono con tanta passione. E se ci vogliono bene i nostri ascoltatori chiameranno il 981-6-2938 per offrire a Luca un impiego. E a me un saluto che vado via. È un saluto. Dai, che vai via, ecco. Chiamatemi. Ma com'è sto viaggio? Lasciamo perdere. No, duro, non ti fermi sì, in faccio Asia. Scalo a Singapore. Per quanto? Per un'ora e mezza. Il tempo di scendere, fare il giro dell'aeroporto e risalire. Per cambiare aereo, no, e poi vado a Londra. Consiglio, vai a Londra prima. Arrivo a Londra. No, ma chi te l'ha fatto fare? Perché il viaggio parte all'andata, abbiamo prenotato da lì perché gli altri scali erano pieni. Quindi facciamo a Londra e faccio da Londra. Da Londra dopo 6 ore ho l'aereo per Catania. E 6 ore che fai? Devo andare da Heathrow, è grande a Londra, devo cambiare terminal, insomma. Ci sono 6 ore? Non lo so, però comunque potrebbe perdersi il nostro carissimo inviato. Sì. Mi stavo perdendo al domestic qua, figurati. può succedere. Chiediamo scusa per le risate, specialmente a Franziska che ci ascolta con le cuffie ogni settimana quando fa il montaggio del sito. Ecco. Scusa Franziska per le risate. No, fastidio. Potrebbero, tanto, con le cuffie, sì. Una persona che l'ascolta sulla radio magari non fa niente. Scusami tanto. Scusateci. Comunque, sì. Una bassa voce, perché il paese è piccolo e la gente mormora. Mormora. Adesso parliamo così tutto il tempo. Dai. Ciao. Un saluto a Francisco. Come ti chiami? Salutiamo parecchio. Comunque, sì, stavo parlando, un consiglio a te, Fabio, e poi a tutti i nostri carissimi italiani ascoltatori. Questo viaggio, che è lunghissimo, 18 ore di minimo. 21. Diciamo, 21 ore, una giornata in aereo. Fare scalo in ovunque che sia, Bangkok o Singapore, rimanete là una sera, riposatevi. E prendetevi l'aereo all'indomani. Fate lo stopover. Ho trovato che gli alberghi in quella parte del mondo, con l'euro e col dollaro australiano, ti costano pochissimo. Sono stato in un albergo a 5 stelle io. $70, un 35 euro. Luca prego, non è Roberto, d'accordo. Ti prego, Roberto, no, non infierire, perché già io a Siracusa dovrò fare un'operazione di pulizia di pulizia etnica, quindi lasciamo perdere. Lasciamo perdere perché c'è stato un patatrack con questo biglietto, quindi dovevamo fare uno stopover importante a Bangkok. Lasciamo perdere, la mia agenzia mi ha un attimino creato c'è un bidone, amarezza, un po' di amarezza in questo, quindi c'è una persona che mi sta aspettando a Siracusa, a me e a mio padre, abbastanza per andare un attimino a chiarire face to face questa situazione. Comunque il principio del discorso è comunque il discorso fila, poi fermatevi a Bangkok, dico, ci sono delle bellissime ragazze, bellissime cose. È partito sempre con la testa. No, ma è giusto, è giusto. No, però Bangkok è un posto che va visitato, è lungo e largo, voglio dire, no? Sì, ma anche stando in albergo, diciamo, ti riposi, ti sdrai, sì, ti guardi la spiaggia, ci sono delle ragazze che ti con le palme, ecco, volendo, ma si spende poco, una persona si rilassa, il viaggio sembra sabbia rosa, mare turchese, insomma, c'è cose fighissime. Io non so il mare turchese, c'è anche turchese proprio, no? Non lo conosco. Allora, lo conosco io, la conosco, turchese è femmina. Sì. I don't know this thing. Insomma, I don't know this thing. Io conosco anche fragile this thing. Come? Fragile. Chi è? Battuta, no, vero? C'è una canzone che si chiama Fragile this thing. Ah, ecco, oh, fragile, vale. Ecco. Okay. Stai mettendo la pronuncia sulla I, fragile. Invece è? Fragile. Fragile. L'intonazione all'inizio. Excuse me, Roberts. It is okay. Yeah. It's okay. Ho fatto... Yeah, that's alright. Un'unità di linguistica oggi nei miei studi, quindi una botta di intonazione da qui, intonazione di là. Perfetto. Alla fine parlo sempre male comunque. Ci sta. Bello, il tuo italiano è perfetto. Lo dicono soltanto perché gli do cibo e gli do... e gli ci passa vitto e alloggio. Gli passo vitto e alloggio. Sono tutte bugie. Comunque, la prossima canzone, perché passeremo uno stacco pubblicitario e poi la prossima canzone, così facciamo due piccioni con una fava. Yep. Prendiamo due piccioni. Two birds with one stone, l'abbiamo detto la settimana scorsa, infatti, adesso continuiamo ad usarla. Le cose, bisogna impararle, perché poi alla fine ti ritorno. Infatti, ecco un'ottima analisi questa. Tipo stay in the summer where you stay in the winter, fatta la statua non l'ha fatto un menno, cioè uguale. Sembra un detto questo è interessante pure. Io preferisco fatti l'estate, ecco, lascio stare. Poi comunque, mi spiego dopo, dai. Poi mi spieghi quando non siamo in onda. Dunque, la prossima canzone è un'altra canzone della nostra carissima Mina. La nostra carissima Mina, cioè l'importante è finire. Noi non abbiamo finito ancora, però abbiamo scelto sta canzone. No, ma l'importante è finire. Però l'importante è finire. Portare le cose a termine. Sempre nella vita, comunque. Ecco, perché avete scelto questa canzone? È stata solo perché la cantante Mina oppure c'è stato un po' di... perché appunto si parlava l'altra volta, insomma, sulla difficoltà di completare le cose, insomma, che si inizia. Quindi l'importante alla fine è finire. L'importante alla fine è finire. Dunque, mettiamo uno spot pubblicitario e torniamo con i nostri carissimi amici Fabio e Luca. Right now. Niente fici. Dunque, niente è successo. Stiamo qui in studio, siamo con Fabio e Luca. Hey mate. Hey mate. How are you? Fine, thanks. Fine, you? Thanks, you. Bye. sì, siamo un paio di ragazzi un po' buffi. Dai, si scherza. Si scherza, vi vogliamo tutti un mondo di bene. Tanto. Comunque, questa canzone è un po' a luci rosse. Sì, molto... Come diceva Luca, piccante. Ecco, piccante. Siamo negli anni 70, quindi insomma. Ecco, abbastanza scandalo sarebbe stato creato anche se fosse uscita oggi questa una canzone del genere, possiamo dirlo? Sì, insomma. Ci sono delle allusioni... Considerando la musica americana, ormai te la dicono in faccia. Ecco, fare. Considerando che sì, che l'altra la musica... sera tu mi ricordi quella canzone che mi detto, lo sai che stanno dicendo qua? Ah, ecco, è vero. Ormai l'Italia è superata per questo. Ah, ecco. Sono gli altri paesi sono molto più espliciti di noi, voglio dire. Ecco, magari gli italiani lo fanno con London Bridge, ecco. Magari noi lo facciamo con più gusto. Sì, meno volgarità, con forse. Meno volgarità, ecco. Gli altri tutti questi termini strani che usano per... parla di... Sì, fanno... usano metafore un po'... pesanti. Animalesche. Animalesche, un po' da cesso. Ecco, io non volevo dire, però stasera stai facendo tu le parolacce. Ma Moncesso non è una parolaccia, dai, è un gabinetto... Una toilette. Di basso livello. Ecco. Una metafora intelligente, con gusto, non so. Sì. È anche apprezzabile. Prenderei la via dell'alcol solo per dimenticarle queste canzoni. Sti ragazzi. Porco. Dunque, vi leggo un altro annuncio. E comunque, anzi... Prima dell'annuncio dell'Istituto di Cultura di Sydney, vorrei ricordarvi che c'è l'Italian Camp. Abbiamo parlato la settimana scorsa in diretta con Sandra Pitronaci. Let's go. Che organizza l'Italian Camp. Questo è davvero interessante. Per contattarla per email sandra.pitronaci@arts.ucd.edu.au abbastanza senza indirizzo Emma Gumma. Un saluto a Sandra, magari se ci mandi il numero di telefono è più facile. E lo riceverai sulla pelle di questo. È un po' lungo. Comunque, se ve lo dico tutto così, sandra.pitronaci@arts.ucd.edu. Riprovate. Sì, stavolta comunque. È più semplice comunque, penso che comunque .com.eu. .com.eu. Comunque, se contattate l'Università di Sydney, il Dipartimento di Italiano troverete lei. E comunque questo è un Italian Camp per studenti iscritti a corsi universitari di lingua italiana, e anche per giovani italiani, membri di associazione, ma anche a coloro che potrebbero essere interessati. Fabio fa il monello perché sa che tanto dopodomani se ne parte in Italia, quindi non dovrà... E chi se ne frega se chiudi la radio per colpa mia? Chi se ne frega? No, esatto, sto scherzando, detto Roberto. Bene, detto ti voglio bene tantissimo. Ti voglio bene anch'io, amico. Oh, Afra, oh, non cito Camp, tutto pare. Veramente c'è da dire. Comunque, spero che ci sono siciliani che mi capiscono. Speriamo che non ci siano siciliani che ti capiscono, se no vado fuori. Let's go. Se no non ci sarà più ciao ragazzi. No, comunque questo è per ragazzi oltre che hanno più di 18 anni, comunque un camp abbastanza interessante. La settimana prossima avremo uno spot pubblicitario che potrete ascoltare e vi spiegherà tutto meglio di quanto posso spiegarvi io in questo momento, perché sono abbastanza distratto perché ci sono due ragazzacci in studio. Ai ai ai. Ecco, parlate nel microfono. Comunque questo è l'Italian Camp che si svolgerà il weekend del, se non mi sbaglio, il 27 al 29 aprile a Narrabeen alla Eleanor Conference Center, però ovviamente bisogna prenotare eccetera. Comunque, mentre questi ragazzi si dovranno dare una calmata eventualmente, vi dico che l'Istituto Italiano No, li stiamo ascoltando con attenzione, non abbiamo capito tutto di quello che hai detto. Poveracci professori nel liceo con voi due in classe, poveracci. Niente succedeva. Probably, I think that there are the most secret information in my laptop, and that's it. Perché mi capisci sti ragazzi? L'Istituto Italiano di Cultura di Sydney, organismo ufficiale dello Stato italiano, ha quale obiettivo? Quello di promuovere e diffondere la lingua italiana e cultura italiana in Australia attraverso organizzazione di eventi culturali per favorire la circolazione delle idee, delle arti e delle scienze. L'Istituto Italiano di Cultura di Sydney offre al pubblico australiano i seguenti servizi: corsi di lingua e civiltà italiana tenuti da docenti qualificati di madrelingua, due sessioni annuali di esami per ottenere il diploma di conoscenza della lingua italiana come lingua straniera, una biblioteca, basta ragazzi, se no son botte, biblioteca italiana a disposizione dei soci dell'istituto e degli studenti iscritti ai corsi di italiano. Come? Stai cedendo, dai. Sto cedendo. Per la consultazione, il prestito di libri, videocassette, CD, DVD, riviste e giornali italiani. È un pozzo di scelta. Servizio di informazione e documentazione sull'Italia nel campo culturale. Dunque, arte, spettacolo, cinema. Due punti: per le manifestazioni concertistiche, per alcune mostre d'arte e per gli eventi di maggior respiro, l'Istituto si avvale della collaborazione. Oltre a ciò, è un ottimo punto di riferimento per bandi e concorsi disponibili per studenti interessati ad ottenere borse di studio per studiare in Italia. Questa è davvero una cosa eccezionale, ragazzi. Ma quando, Roberto? Ma quando? Ah, finisce. Mi dispiace, ma sai, fa parte del programma. 02 9392 7939, per contattare l'Istituto di Cultura di Sydney. Dunque, mi sa che volete passare alla prossima canzone. Ascoltiamo un po' di musica. Beh, direi, perché dopo questa cosa è proprio stata tristissima. Te ne vai. Ma quando te ne vai, dici, vero? Così la smetti di rompere. Dunque, adesso ci abbiamo un'altra canzone di Luigi Tenco. Ecco, grande questa canzone. Tenco. Grande Tenco, thank you very much. Luigi Tenco con Vedrai, Vedrai. State ascoltando, ciao ragazzi. Bentornati su Ciao Ragazzi. Ciao Roberto. Manca pochissimo. Ciao, ciao. Questa era una bellissima canzone, ma triste. Ma triste, forte. Tanto per cambiare, posso fare un gioco? Faceva il passaparola. Ecco, ok. Con la A. A. Una malattia virale italiana. A varicella. Con la B. È l'unico frutto dell'amor. Il bergamotto. Con la C. Il migliore amico dell'uomo. Ugric. Non la conosco questa. Ragazzi, sta scadendo il tempo, quindi che cosa facciamo? Passiamo a un'altra canzone di Mina. Così, lampa e stampa. Parole, parole, state ascoltando Ciao Ragazzi, non ve ne andate perché manca pochissimo alla fine, quindi bisogna salutare il nostro Fabio, eccetera. Comunque, è finita così sta canzone, okay. Tristemente è finita così. Tristemente, bellissima però. Bellissima, sì. Bellissima. Parole, parole, parole, di Mina. Ma scingendo discorso. Scingendo discorso. Bisogna stringere non solo parole, fatti. Fatti, non pugnette. No, pugnette, ecco, non volevo dire. Questo è il messaggio proprio della canzone. Il grilli, la luna, il sole, va dai, stringiamo il discorso. Ecco, dunque siamo giunti alla fine del programma. Cheese. È stato davvero bello averti con noi, Fabio. Grazie. Adesso, adesso non piange. Adesso non sarà più un programma divertente, ciao ragazzi, sarà solo serio e intelligente, ecco, con noi due. Che cosa stai dicendo? Finalmente la componente burlona se ne va. Vabbè, ma la vita senza spirito cos'è che si... Giusto, questo è anche vero. Ecco. Comunque niente, hai un ecco, un vino senza spirito che cosa sarebbe? Paro babbo, non preoccuparti. Paro babbo, invece. Invece c'è mio compagno Piero qua che può dire qualcosa su... sulla mia testa. No, sì, non è, not so bad. Not so bad, not so bad. Però si è aperto lui. Comunque, devi dire qualche cosa così che poi quando ascolti questa trasmissione scaricata come podcast in internet sul nostro sito www.2rrr.org.au ti potrai risentire dopo aver detto una cosa. E restare tante lacrime. Ricordati qualcosa. Non so, alla fine sono rimasto sconvolto da questa terra. Immaginavo un'avventura fantastica, ma non fino a questo punto. Ok, ma adesso parla direttamente a te stesso. Grande Fabio! Fatti una domanda, fatti e datti una risposta. Grande Fabio! No, seriamente, lo dice Gigi Marzullo, non lo so. Fatti una domanda e datti una risposta. Dai, molto semplice. Aiutami. Non so, cambiati. No, tu fatti la domanda. Dici Fabio, cambiati le mutande, una cosa del genere. Non so. Fabio, non ci irà a palestra. Sanguillo, un bar. Bravo, ok, adesso fine di fine di programma, l'ultima canzone. È l'abbiamo. Mezzanotte. È mezzanotte. Ecco, una carezza in un pugno. Questo è Adriano Celentano, grazie per essere stati con ciao noi. Ciao a tutti. Ciao, ciao, a presto. Pasqua. Ciao Francesca. Ciao Francesca, ciao.